ci sarà una registrazione di quello che stiamo per dire. Intanto ringraziamo il Palazzo delle Esposizioni, la libreria del Palazzo delle Esposizioni che ci ospita e che ha dato appunto spazio a una cosa un po' particolare, perché a differenza di tutti i libri che vedete qui intorno a noi, questo libro qui si può leggere perché ci sono dei saggi introduttivi, tra cui due saggi di Giuseppe Carrera e di chi vi parla, e poi anche uno di Ada De Pirro, un altro di Pasquale Polidori. Ma il resto del libro è fatto di cose che non si possono leggere, perché è un libro di scrittura asemica. Intanto presento l'autore, artista, che è Fabrizio Rossi, che vedete qui a fianco a me, e Giuseppe Carrera, che ci parlerà di un aspetto particolare che non abbiamo ancora affrontato nelle altre presentazioni che abbiamo dedicato a questo libro, che è pubblicato, lo voglio ricordare, da Cambio una Virgola, che è diciamo, la parte che si occupa di editoria di un'associazione no profit che si chiama Spazio Etico, che trovate quindi anche in rete. C'è una buona e bella scheda editoriale che potete trovare sul sito dello Spazio Etico. Che cos'è questo libro, dunque? Il titolo In itinere fa riferimento, era girato dalla parte appunto illeggibile, mentre qui leggete almeno il titolo e il sottotitolo che dice Pratiche di scrittura asemica. L'iter è il percorso dell'autore anche proprio fisicamente nel cercare e trovare nelle sue passeggiate, di cui è un appassionato praticante, nei suoi nelle sue peregrinazioni, delle pietre di vario tipo. Qui vedete una piccola esposizione, appunto, che sta veramente in un riquadro di Instagram. Volendo potete fotografarla e portarla con voi per cercare anche di studiare queste scritture, che sono diverse, di diverso tipo, di diversa inclinazione e modalità. Poi lui stesso ci parlerà, ci dirà sia della sua passione per il camminare, sia per quindi l'andare alla ricerca dei materiali su cui scrivere, e insieme a lui Giuseppe Carrera invece ci illustrerà quanto e come è importante l'aspetto musicale della scrittura, in particolare della scrittura asemica. Intanto, che cos'è la scrittura asemica? La scrittura asemica è quella forma d'arte, o meglio ancora, quella forma di espressione attraverso i segni che prescinde dalla leggibilità intesa in senso linguistico, semantico, immediatamente decodificabile. Tutte le tracce, tutti i materiali grafici che vedete incisi su queste pietre, come in una tutto sommato lunga tradizione di scritture che attraversa un po' tutto il Novecento, a partire addirittura dai primissimi anni, dal primo decennio del Novecento, ecco, tutto questo materiale, tutti questi materiali scritti ci danno veramente la possibilità di esperire il senso della bellezza del gesto manuale anche e della armonia o disarmonia delle linee, senza per questo arrivare ad essere alfabeto, o meglio, mimando quello che il nostro occhio pensa sia un alfabeto, una scrittura leggibile, quindi decodificabile secondo regole linguisticamente apprese o da apprendere, come per esempio può essere la fascinazione per la scrittura giapponese, non la conosciamo, ma possiamo apprenderla. Ecco, in questo caso qui è impossibile apprenderla perché non c'è nessun alfabeto a cui far riferimento e ci troviamo di fronte semplicemente a delle linee che alludono a una scrittura senza mai arrivare ad esserlo, a essere veramente scrittura. Ma sull'importanza anche di queste allusioni incide anche tutta una serie di elementi che possono essere intanto il materiale su cui si scrive, poi appunto l'ambiente, la circostanza, la situazione, che può essere per esempio una situazione immersa in un discorso musicale. Poiché la scrittura asemica ha moltissimo a che fare con la gestualità e quindi, diciamo, un'idea performativa, esecutiva, di un gesto, in qualche maniera ha anche a che fare con quella che, forse con un azzardo, spero di non dire una banalità, potrebbe essere definita la danza della mano, del gesto, appunto. E di conseguenza questo non può non essere un trait d'union abbastanza diretto con la musica. Fabrizio Matteo Rossi, musicista, oltre che editore, grafico, studioso di scritture, docente e asemic writer, quindi, perché c'è anche l'espressione inglese per dire scrittura asemica, asemic writing, è anche musicista. Così come Giuseppe Carrera è oltre che collezionista, studioso, docente, anche musicologo, e quindi credo che questo sia il miglior incontro possibile per unire le due sponde, i due versanti della possibilità, delle possibilità della scrittura. Quindi una scrittura che non significa, ma continua ad avere senso e continua anche a diciamo risuonare con ciò che altrettanto sembra non avere un significato verbale decodificabile, che è appunto la musica, e appunto il gesto, il movimento della mano, qualcosa che ha a che fare insieme e in maniera però leggermente differente sia con la performance sia con l'installazione, perché qui abbiamo installata una mostra, ma che è una sorta di mostra di performance pietrificate, che si sono depositate sulla pietra e che possono essere ancora estratte come se si trattasse di leggere un pentagramma, e su questo un po' ci potranno dire, un pentagramma chiaramente difficile da decifrare e su cui noi possiamo soltanto così, chiacchierare amabilmente, spero, come vorremmo fare qui. Adesso non so a chi dei due passare per prima la parola. Forse Giuseppe, che ci dirà qualcosa appunto sul rapporto con la musica. Sì, allora, tenterei di cercare di capire che cos'è, o meglio da che cosa nasce, o che cosa testimonia la scrittura semica. In un certo senso mi piacerebbe in breve riuscire a dare l'impressione, nel guardare queste scritture, che cosa dobbiamo ascoltare. Qui abbiamo già due elementi diversi, un conto è l'elemento visibile e un conto è l'elemento dell'ascolto. Ora, comincerei con un riferimento che spero poi diventerà chiaro. Tra le opere più importanti musicali del Novecento, del secondo Novecento, tra le indagini sul suono musicali fondamentali del secondo Novecento, ci sono due opere, un ciclo e un'opera specifica di Luigi Nono. Vi consiglio la lettura, e capirete subito perché, di un suo saggio strepitoso che si intitola Ascoltare le pietre bianche. Ovviamente qui il riferimento è come ascoltare camminando per Venezia le pietre bianche e rosse di Venezia, però è proprio legato al cammino per il labirinto di Venezia. Lo dicevo, ci sono due opere fondamentali di Luigi Nono. La prima è Prometeo, che ha un sottotitolo su cui vorrei fermarmi, Tragedia dell'ascolto. La tragedia dell'ascolto. Che cos'è la tragedia dell'ascolto? Questa è la prima opera. Allora, la tragedia dell'ascolto è un fenomeno che attraversa tutta la storia della musica, in particolare la musica del Novecento, ed è legata a un elemento negativo. E questo elemento negativo è il rapporto di nuovo che si istituisce di ragionamento con la scrittura. Allora, l'alfabeto, la scrittura alfabetica, dice Platone, ha condannato l'uomo all'oblio. Cioè, per Platone, una delle perdite più gravi dell'umanità è legata all'invenzione della scrittura. E cioè, il fatto che cellule fonetiche elementari permettano di, attenzione ai verbi, fissare, inchiodare quello che diciamo, e ancor peggio di ridurre quello che diciamo a pensiero, concetto e possibilità solo di leggerlo fisso, quello che noi chiamiamo l'egemonia e il dominio del significato. Con la scrittura, con l'alfabeto, noi abbiamo perduto un intero universo, che è l'universo della voce, del corpo, dell'ascoltare, del significante, dell'aleatorio, che saranno tutti gli elementi su cui si fonderà la musica contemporanea. La musica contemporanea è quasi tutta per tradizione orale. Le partiture di Luigi IX al 70% sono per trasmissione orale. La scrittura è solo una scrittura che deve segnare ciò che si perde, cioè il vuoto incolmabile. Dunque noi abbiamo una tradizione, che è quella della scrittura, che ha fissato nell'egemonia e nel dominio del significato e di un senso univoco e dittatoriale il significato delle cose. Non a caso il grande assente diventa l'ascoltatore, la tragedia dell'ascolto. Non c'è più l'ascoltante, c'è il vedente e il leggente. Poi abbiamo delle forme di ascolto, ma sono quelle appunto che cercano di sciogliere la rete terribile della scrittura. Pensiamo che cos'è la poesia. La poesia è una sorta di allentamento della maglia della scrittura attraverso la versificazione, attraverso i versi. I versi sono in rapporto ovviamente con i momenti di silenzio e dunque permettono, come ogni enjambement, sappiamo perfettamente, di far risuonare le cose e di far sì che il significante possa arrivare a galla, o meglio, possa giungere all'orecchio. Allora noi da una parte abbiamo una tradizione che è la biblioteca, quella che sembrerebbe un mito, e che sono scritture tutte inchiodate. Ogni lettera, ogni elemento sillabico, ogni parola è inchiodata nella scrittura. Ha perso la voce, il corpo, il respiro, il silenzio, per quanto si possa tentare ovviamente di trovare degli elementi grafici per esprimerli. Chi è abituato a leggere musica lo sa perfettamente qual è l'aleatorietà della musica o del sistema musicale, e soprattutto che non esiste possibilità di una scrittura sonora se non nel momento in cui si incarna nell'esecuzione, e cioè nella scelta dell'interprete, se prendiamo il direttore d'orchestra, lo stacco del tempo, l'indicazione di che cosa significa andante, adagio, forte, fortissimo. Nella tradizione prima della codificazione musicale del pentagramma, pensiamo al canto gregoriano, i neumi erano soltanto dei gesti che richiamavano il gesto della mano. La scrittura musicale interviene nel momento in cui si sta perdendo la tradizione orale di memoria dell'esecuzione, perché il canto gregoriano nella sua tradizione originaria era tutto a memoria, era una tradizione orale, la trasmissione avveniva oralmente. Allora, che cosa testimonia la scrittura semica? Credo che la scrittura semica è come se testimoniasse la tragedia della perdita, cioè tutto ciò che abbiamo perduto. In una ribellione totale al logos, alla legge egemonica, inesorabile, spietata del significato e del senso. Non a caso la prima percezione che si ha vedendo le scritture asemiche è quella di dire: vabbè, non hanno nessun senso, non hanno nessun significato, non significano niente. Allora, qui è fare silenzio, cioè nel momento in cui una scrittura, un'opera musicale, produce uno spazio silenzioso, lì avviene l'ascolto. Vi ridico il titolo del Prometeo di Luigi IX. Prometeo, la tragedia dell'ascolto. La tragedia dell'ascolto è dettata dal fatto che anche tutta la tradizione musicale, ovviamente stiamo parlando in maniera un po' razzistica della tradizione musicale bassa, cioè le canzonette, la musica di diffusione, è una musica tutta con una fissità, un significato, una dittatura della scrittura nell'esecuzione, nella semplificazione, noi non siamo più, diceva Luigi Nono, degli ascoltatori difficili, degli ascoltanti difficili. Cioè noi abbiamo un ascolto univoco, così come siamo diventati tutti dei vedenti, e cioè vediamo e leggiamo, e dunque non facciamo nient'altro che ricordare con nostalgia quando ci accostiamo a dei versi, leggiamo Leopardi o leggiamo Rilke o Hölderlin, all'improvviso il mare, il naufragio dato dalla scrittura poetica che è polisemica, oppure quei lettori ingenui che chiedono: ma è possibile che in un verso riuscite a vederci tutte queste cose? No, quando si fa l'esegesi di un verso e il profano, il non ascoltante, ci fa la domanda: possibile che lo scrittore pensava tutte queste cose? Beh, considerate quello che è la musica assoluta, dove il divieto assoluto è di dare una lettura logica, narrativa, descrittiva e illustrativa del brano musicale. Faccio un esempio che valga per tutti. Famosissimo. La sonata opera 26, numero 2 di Beethoven è conosciuta come Al chiaro di luna. E a noi questo dà tanta soddisfazione. Cioè il fatto di mettere un brano e di dire: è il chiaro di luna. Sentite che siamo già nel fissaggio del significato. E non a caso si può dire che uno dei più famosi brani di Beethoven è Al chiaro di luna. Poi quando uno lo esegue, un pianista lo esegue, se non ci fa sentire bene l'andamento dell'accompagnamento con la mano sinistra, possiamo anche fare delle annotazioni di questo tipo. E non si sente bene il riverbero e il riflesso sulla luna, questo notturno. Allora, Al chiaro di luna non è il titolo dato da Beethoven. Il titolo è stato aggiunto 5 anni dopo la morte di Beethoven, perché neanche ha avuto l'assenso di Beethoven. Al chiaro di luna è stato dato dall'editore, che ha pensato giustamente che questo sia il meccanismo di tutta la storia della musica moderna, della televisione, della letteratura, eccetera. Ha pensato una cosa: se io pubblico questa sonata di Beethoven con il sottotitolo Al chiaro di luna, vendo come non mai. Perché? Perché do proprio una indicazione di significato. Allora, noi abbiamo l'indicazione di Beethoven, che era quella della tonalità, e di una definizione particolare, quasi una fantasia, strepitosa come definizione, se pensiamo che è una sonata, cioè appartiene a delle leggi molto precise. No, i quattro tempi, i tre o quattro tempi, l'allegro iniziale, l'andante o l'adagio, terzo tempo, il trio, cioè lo scherzo con il trio e poi l'allegro finale. In forma sonata il primo, il secondo in genere tema con variazioni, il terzo A, B, A e l'ultimo in genere rondò. Per cui c'erano delle regole un po' come il sonetto, come la canzone. Non vi immaginate che il musicista sia in una sorta di anarchia totale. Ma mettere la titolazione Al chiaro di luna è il processo, come quello della scrittura, di una umanità che cerca di abbassare, azzerare l'ascolto, vincolandolo e legandolo al significato descrittivo, che ci dà una immensa soddisfazione. Amo molto Al chiaro di luna di Beethoven, piuttosto che dover dire sonata in re minore oppure in do maggiore o in mi bemolle maggiore o minore di Beethoven, il quale stava scrivendo un brano assoluto, cioè per evitare la tragedia dell'ascolto. Tanto che noi possiamo dire che tutto l'ascolto musicale assoluto è l'ascolto, finalmente, è una iniziazione alle terre fuori dalla scrittura codificata. C'è una seconda opera di Luigi Nono, che credo si leghi benissimo all'esperienza che stiamo facendo adesso, è la trilogia con cui terminerà la sua opera di vita anche, prima della morte. Ed è una frase che lui aveva letto casualmente in un chiostro di un convento di Toledo. Caminantes, non hai caminos, hai che camminare. Voi che camminate, non ci sono cammini, c'è solo da camminare. Tutta l'opera musicale di Luigi Nono, ma direi del Novecento, è non ci sono strade, non ci sono cammini, c'è solo da camminare. Noi siamo dei camminantes che vogliamo a tutti i costi dei cammini. Mentre invece Luigi Nono creerà una trilogia, la prima si chiamerà Caminantes, la seconda No hay caminos, e la terza, per due violini, è un capolavoro, da questo punto di vista. Il problema qual è? Adesso lo dico subito a livello di esecuzione. La terza è hai che camminare, devi solo camminare, c'è cioè solo da camminare, puntini di sospensione. È l'ultimo verbo usato come indicazione da Luigi Nono, sognando. Per cui il cammino deve essere fatto in una dimensione molto chiara. Mentre si cammina, si sogna, si va sognando. Dicevo, qual è il problema dell'esecuzione dei brani di Luigi Nono? È che sono legati agli esecutori, cioè nome, cognome, indirizzo dell'esecutore, gli esecutori fisici. Detengono quasi tutta la memoria, ma soprattutto mentre suonano, vi ricordo Fragment Adiotima di Luigi Nono, devono recitarsi a memoria, in silenzio, senza che il pubblico lo sappia, dei versi di Hölderlin che sanno solo loro e sentono solo loro. Tanto che l'editore, ancora una volta, chiede a Luigi Nono: ma non si potrebbero scrivere questi versi? Cioè trasmetterli all'uditore? Agli ascoltanti, no, gli ascoltanti non devono ascoltare i versi di Hölderlin, ma devono ascoltare uno che sta eseguendo della musica e dentro di sé sta ascoltando i versi di Hölderlin. Ancora una volta, come vedete, la tragedia dell'ascolto, cioè rendere il più possibile immensamente molteplice e complessa l'esperienza dell'ascolto. La musica contemporanea, che ovviamente si è allontanata dai vedenti, si è allontanata e sempre più sta coltivando la tragedia dell'ascolto. Perché? Perché adesso immagino che probabilmente se vi dico Prometeo di Luigi Nono, Caminantes, forse in questa sala, ma è normale, forse l'1% o il 2%, forse lo 0% è in grado di possedere l'opera di Luigi Nono. Con Luigi Nono sto parlando di un Mozart, di un Beethoven, di uno Schubert del 1980, a livello di statura, forse anche per alcuni aspetti anche superiore, cioè stiamo parlando di un gigante della musica contemporanea. Questo potrebbe succedere, fra poco succederà anche per John Cage, no? Se parliamo di John Cage. Chiudo con una annotazione. Luigi Nono a un certo punto aveva desiderato tantissimo una collaborazione con Calvino. La collaborazione non avvenne mai. E la collaborazione non avvenne perché Calvino disse, erano ancora gli anni 50, troppo presto, che non era in grado di ascoltare. Cioè, io devo ovviamente crescere come scrittore, come artista, per poter essere ai livelli dell'ascolto tuo. E scriverà un passaggio che vi leggo, due righe in Palomar, che credo sintetizzano bene questo problema dell'ascolto. Scrive Calvino: il signor Palomar spera sempre che il silenzio contenga qualcosa di più di quello che il linguaggio può dire. Dunque, le scritture asemiche, direi gran parte della grandissima tradizione musicale, appartiene al silenzio e non appartiene al linguaggio, non appartiene alla lingua, non appartiene alla grammatica, non appartiene all'ortografia. Quando dico grammatica e ortografia sto parlando delle leggi dell'alfabeto. E dunque a un'ubbidienza, abbiamo detto a un dominio, a un'inchiodatura, e invece noi è come se fossimo gettati, sono umani silenzi, chiaramente ci viene subito in mente, in memoria leopardiana, in un'altra dimensione che è la dimensione dell'ascolto all'interno del silenzio. Scrive Luigi Nono, a parte sì, in maniera molto polemica, dice: far suonare, adesso capirete perché vi leggo questa, far suonare il silenzio e far suonare lo strumento. Le due cose coincidono perfettamente. Quando un'orchestra comincia a suonare, sta cominciando a far suonare il silenzio. Tutto il resto, cioè il detto, il dettato, lo scritto, appartiene alla inautenticità, appartiene alla tirannia del significato. Uno dei motivi per cui abbiamo pensato fra un po', di eseguire di John Cage 4 minuti e 33 secondi. Lo faremo poi come finale di questa nostra chiacchierata. Un brano famosissimo del 1952 in cui si ascolta per 4 minuti e 33 secondi il silenzio. Ah, lo si ascolta in maniera disciplinata, cioè con un tempo ben preciso, diviso in tre movimenti, riprende, diciamo, la forma sonata prima di Haydn, ancora mozartiana, in tre movimenti. Ognuno di questi movimenti ha un suo tempo, in questo tempo c'è ovviamente il silenzio assoluto, o meglio, il silenzio assoluto dell'esecutore, non il silenzio. Il silenzio non c'è, c'è la musica. La musica proviene sempre dal fondo del silenzio, dalla bocca del silenzio, dalla caverna del silenzio. Allora, penso, no, che questo possa aver dato un po' un'indicazione di quanto c'è di doloroso nelle scritture asemiche. È come se le scritture asemiche avessero questa nostalgia di tutto quello che è andato perduto e che si rivolgessero stranamente a dei vedenti e degli ascoltanti assoluti. È come se togliessimo, provate a togliere al Chiaro di Luna di Beethoven la dizione al Chiaro di Luna. Chiaramente, se penso all'esecuzione di Maria Iudina, se penso all'esecuzione di Richter, se penso all'esecuzione di Pogorelj, se penso all'esecuzione di Glenn Gould, forse la più cattiva in questo senso, Glenn Gould proprio castiga l'ascoltatore togliendogli la dimensione notturna, no? Il malinconico, il bacio perugina, cioè far coincidere praticamente il brano musicale, consegnare tutta la musica al peggior romanticume. Questo è uno dei problemi che genererà la canzonetta, cioè la canzonetta è generata proprio da questo elemento, ecco perché ha bisogno delle parole da questo punto di vista. Mi fermerei qua. Ringrazio Giuseppe Carrera, è estremamente limpida l'esposizione di quello che poi è, come giustamente ha detto lui, un filo, o meglio proprio un ambiente creato, costruito e portato avanti da tutto il Novecento. Pensiamo anche alla distinzione tra morto orale e scrittura di scena, oppure tra azione e atto nella poetica di Carmelo Bene, che appunto considera l'evento scritto come una sorta di insincerità, un cadavere, un morto. È un morto con cui noi da qualcosa come più di 5.000 anni abbiamo a che fare, quindi abbiamo imparato a conviverci, a creare delle cose molto interessanti anche col cadavere, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, però sempre considerando che di fondo ci sono gli elementi che appunto Giuseppe ha perfettamente riassunto e che tutto sommato riassume anche graficamente la stessa copertina del libro, perché a parte essere chiaramente una caratteristica di alcuni dei libri di Cambio una virgola, però in questo caso in particolare, io quando ho detto lo giriamo così si legge in itinere, ho sbagliato sostanzialmente, perché in realtà la copertina è proprio questa, cioè è la parte asemica. Si gira in quarta di copertina, c'è cioè il titolo, in maniera così da attraversare prima tutto il sistema, l'antisistema di silenzi e di gesti grafici che il libro propone, prima di arrivare a quello che invece è immediatamente decodificabile secondo le regole del linguaggio normale e condiviso. Normale, anormale rispetto a altre, ovviamente, letture del reale che comunque ci riguarda. Ora, un'altra cosa che mi mette perfettamente in sintonia con quello che ha detto appena adesso Giuseppe è l'idea proprio della nascita della scrittura. Perché noi sappiamo che in Mesopotamia, circa 5.000 anni fa, un po' di meno forse, i mercanti che erano abituati a commerciare in oggetti estremamente concreti, capi di bestiame, corde, filati e quant'altro, nel momento in cui vendevano i loro oggetti, mettevano all'interno di quella che poi noi chiamiamo bulla, un recipiente di Creta, mettevano degli oggettini, che gli studiosi chiamano token. Cioè, sostanzialmente, vabbè, se io ti ho venduto due pecore e uno scialle, metterò due conetti e un quadratino nella bulla. E la sigillerò. E questo rappresenta un po' il documento di vendita di questi oggetti, documento che però è muto, è vuoto, e non ci dà il senso della transazione avvenuta, e quindi bisogna in qualche maniera sulla bulla incidere cosa c'è dentro. E quindi sulla bulla, su questa superficie sferica tridimensionale che è un oggetto aggiunto agli oggetti che sono stati già scambiati, si indicano con dei segni convenzionali, che sono immediatamente la trasposizione della fisicità dell'oggetto alla fisicità del token, alla fisicità del segno, indicherò, non so, metterò due cunei e poi un cerchio fatto con quattro cunei intrecciati. All'altezza, grosso modo, dicono gli studiosi, del 3300 a.C., la bulla si schiaccia. Invece di moltiplicare il rapporto realtà-segno, si salta il passaggio dei token e si salta il passaggio dell'inserzione nella bulla concreta, che andrebbe spaccata per verificare la vera rappresentazione del reale nel nostro immaginario segnico, e la scrittura nasce in questa forma, cioè la scrittura nasce come luogo del segno che corrisponde immediatamente alla cosa, non passa attraverso l'oggetto, un oggetto a sua volta significante. Questa catena interrotta, questo spezzare, in realtà dà veramente l'esplosione di quella che noi chiamiamo storia. Noi facciamo coincidere grosso modo la storia con la nascita della scrittura. Ebbene, se noi facciamo un salto di 5.000 anni, ritroviamo di nuovo degli oggetti che non sono bulle, non sono delle pietre, che sono completamente piene, che non hanno niente all'interno se non la storia della Terra, quindi qualcosa che addirittura prescinde e precede la nostra comparsa sul pianeta Terra. Ricordiamo che là, per alcuni scienziati, l'idea che la stessa acqua, che è all'origine della vita organica, a prescindere da quella umana, è nata all'altezza grosso modo di 4 miliardi di anni fa, grazie anche al bombardamento incessante di asteroidi che hanno portato nel loro cuore delle molecole che poi sarebbero diventate i nostri mari e oceani. Quindi possiamo immaginare che quantità di esplosioni e di distruzione preumana, antiumana, abbia portato in realtà a quella che noi chiamiamo vita sulla Terra e poi addirittura perfino noi che adesso ne parliamo. Ebbene, queste pietre, che sono la testimonianza di questi miliardi di anni in cui noi non esistevamo, forse non esisteva neanche la Luna, queste pietre non contengono nulla, cioè contengono esattamente il silenzio, cioè esattamente il rumore di fondo del cosmo, e finalmente la scrittura si emancipa dal suo desiderio di rappresentare un nodo commerciale che dovrebbe stare all'interno della pietra. Finalmente la scrittura si libera dalla idea del do ut des, dello scambio economico, di qualche cosa che debba avere a che fare con una registrazione notarile dell'esistente. Queste pietre non registrano assolutamente nulla, se non la sensatezza, se non il rumore di fondo di quello che, di quella che è la nostra interpretazione della vita biologica di cui tutti facciamo parte, e che è esattamente ciò che non poteva essere fatto chiaramente per motivi che possiamo immaginare 5.000 anni fa. È veramente una diciamo un'acquisizione recente questa della scrittura semica. A me non sembra di poter retrocedere a prima dei primissimi anni del Novecento, e di conseguenza, senza voler attribuire alla semic writing un ruolo come dire eccezionalmente rivoluzionario, però a me sembra che questa pratica artistica abbia un valore che va molto molto al di là, come ha detto Giuseppe perfettamente, la semplice, diciamo così, domanda del che vuol dire, che significa, perché dovrei ammirarla. C'è qualcosa che anche dal punto di vista filosofico, dal punto di vista proprio della misteriosità, se vogliamo, del nostro rapporto con il cosmo, e io veramente nel pensiero mi fingo parlando di queste cose, c'è qualche cosa che veramente diciamo segna un passo importante nella storia delle modalità di significazione dell'antropos. Chiaramente lo segna in un modo di cui noi non conosciamo poi gli ulteriori sviluppi, cosa potrà essere di qui a 5.000 anni, ammesso che la specie umana continui a esistere, delle nostre tante modalità di significazione, che includono anche la musica. Questo non lo possiamo vedere. Possiamo però vedere qui, in questa piccola mostra, in questo piccolo riquadro, quello che secondo me è un passaggio fondamentale proprio della storia, non soltanto dei linguaggi, non soltanto del corrispondere, ma proprio della nostra percezione stessa del nostro stare al mondo. A questo punto io volevo passare la parola a Fabrizio, che però si rifiuta, giustamente, tacet, e quindi forse passeremmo direttamente all'esecuzione, durante la quale potrete ascoltare, oltre alla musica, anche la radiazione di fondo dell'universo. Naturalmente sono a disposizione per eventuali domande, ci mancherebbe altro. Prima o dopo il 4.33? Dopo. Allora diamo qualche indicazione. Vai. Allora, credo che tutti conosciate 4.33 di Cage, vi do delle indicazioni, è come un brano musicale, un normale brano che viene eseguito per qualsiasi strumento, libertà assoluta. Noi lo abbiamo sentito spesso a pianoforte, in alcuni casi con orchestra. John Cage è molto chiaro, non ci sono limiti, qualsiasi strumento musicale può eseguire e scandire il tempo. I minuti sono 4.33, viene chiamata, ma avete capito a questo punto che fa sempre parte del nostro desiderio di ancorarci al concetto, al significato, viene chiamato silenzio, silence, ma in realtà non è questo il titolo sempre pronunciato da Cage è 4.33, per cui può dire 4 minuti e 33 secondi o 4.33, ma non si esce da questo. Credo che sappiate che l'esecuzione è stata dopo la Sacra della Primavera, la Sacra du Printemps di Stravinsky, il più grande scandalo della storia della musica. Nella Sacra della Primavera, va bene, sradicarono anche le sedie, le poltrone del teatro, venne sospesa l'esecuzione, intanto Stravinsky di là festeggiava il successo, perché chiaramente se viene interrotta un'esecuzione il successo è garantito, e fu una cosa, un boato di ribellione del pubblico che non accettò nulla del Sacre. Però il Sacre aveva una caratteristica, era danzato, cioè c'era anche una ribellione a una danza che diventava una danza della terra e dunque contro le silfidi e tutta la tradizione della leggerezza delle ballerine. Erano ballerini radicati nella terra attraverso una coreografia di Nijinsky che era di tipo tribale, barbarica e tribale, dunque tutto in quello spettacolo scandalizzava. 4:33 di John Cage, credo sia stato identico, il pubblico ovviamente non accettò e credette che si trattasse di una provocazione, e invece spero di aver dato anche a voi adesso l'idea che non è assolutamente una provocazione, è un esercizio mistico all'ascolto, all'ascolto. Cioè, chiuderei proprio dicendovi quello che Luigi Nono continuava a dire: noi non abbiamo più ascoltanti. A lui gli mancava proprio questa figura. Non abbiamo più ascoltanti, per cui se adesso si confermasse la mia ipotesi che non avete mai sentito Camminantes di Luigi Nono, noi non abbiamo più ascoltanti, proprio di fatto non ci sono più ascoltanti, in una dimensione, diciamo, di banalizzazione per questa sete di avere un significato, no? Di questo tipo. Allora, mi farà un po' da guida Marco, sono tre movimenti, e io mi metto lì per dare il tempo. Ecco, nell'esecuzione di Cage si applaudiva il pubblico come un concerto, eh? Allora, mi sentirei solo di dare due indicazioni da musicologo. È chiaro che la cosa più difficile è stata proprio ascoltare, io penso, perché non so se avete notato che durante i 4 minuti e 33 noi abbiamo avuto diversi temi, il tema dei passi, il tema delle posate al bar, abbiamo avuto il tema delle voci, del passaggio, direi anzi come un piccolo rondò per tre volte si sono ripetuti gli stessi movimenti, gli stessi rumori del bar e poi come coda finale abbiamo avuto dei passi e appena terminati i passi sono scattati un bippippi di qualche cellulare, di qualche elemento, abbiamo avuto una specie di sinfonia, in più il rumore di fondo delle rifrazioni del microfono, più, cioè, noi abbiamo avuto direi una sinfonia in 4 minuti. Dunque l'ascolto è questo. John Cage in genere quando voleva il pomeriggio ascoltare un po' di musica, era a New York, apriva la finestra, si stendeva sul letto e ascoltava la musica del mondo, della vita, delle macchine, dei passanti. Credo una delle cose più belle sono le registrazioni che noi abbiamo nella musica contemporanea, ad esempio di una domenica mattina in una spiaggia, vengono registrate per 3 ore dall'alba fino alle 11 tutto ciò che accade in una pineta e in una spiaggia. Ma vorrei ricordarvi anche di Baumgartner, il fatto che lui invece decide di mettere un microfono, meglio 7 microfoni, fuori dalla finestra una notte e si accorge che durante la nottata più si avanza verso la notte più si retrocede nel tempo, per cui cominciano a scomparire tutti i segni di civiltà, tutti i segni della civiltà, cominciano a venire fuori dei rumori di animali, dei versi e c'è un punto della notte, della registrazione tra le 3 e le 3:30 dove il tempo recupera il luogo prima della civilizzazione e prima della presenza umana, come se a un certo punto di nuovo gli animali, il fruscio delle foglie, lo stormire delle piante per un attimo possa recuperare tutto il tempo che ha subito di distruzione e poi piano piano ritorniamo in una sorta di macchina del tempo alla modernità con i primi camion, si sentono i primi camion passare. E una delle grandi conquiste della musica contemporanea è il fatto di ritenere che tutto quello che sta accadendo nella nostra esistenza è in questo momento una sinfonia in atto, è una sinfonia in atto che ci accompagna e il cui ascolto è tra le cose più straordinarie, o dovrebbe essere più straordinario. Come vedete, questo è, è far sentire il silenzio, se no non lo sentiamo. Ovviamente siamo in attesa di domande, come diceva appunto prima Fabrizio, se ci sono dubbi o curiosità, siamo qui. Libro. L'avevo tolto per mettere i cartelli dei 3 movimenti, ma è di nuovo qua al suo posto, così come la mostra, l'esposizione. Beh, col tacet del pubblico penso che possiamo. Non hanno chiesto un bis. Possiamo considerare sciolta la presentazione e ringraziare. Guardarci un po' questo. Esatto, ringraziare il Palazzo Esposizione, Giuseppe Carrera, Fabrizio Rossi ovviamente, e cambio una virgola per averci portato il libro e le pietre. Buona visione della mostra a questo punto. Grazie ancora. Grazie.